pensare, rivivere, proteggere e comprendere. Pagine di album da guardare senza piangere. Quando apri quel cassetto che per anni ha conservato i biglietti che ricordano le persone che ha incontrato. Un soldato disarmato che ti proteggerà le spalle. Un pilota consumato dagli sguardi scivolati a valle. Un bambino appena nato che si prende la sua vita e sua madre si sorprende a toccargli il viso con le dita. E suo padre non ha dubbi, una gioia così non è mai esistita. Quanta vita che ci aspetta, dove il tempo passa in fretta davanti a me. Pensare, rivivere, proteggere, comprendere. La tua anima non sanguina, la ferita si rimargina. Oggi sfogli su un tappeto quello su cui sei cresciuto. Le foto che ricordano le case in cui hai vissuto. Un ulivo nel giardino e il camino sempre acceso. Una stanza per la musica a ricomporre il tempo speso. La TV a colori nuova per guardare i mondiali. E tuo padre ti sorprende a toccarti il cuore con le dita. E tua madre che vi guarda e vi sorride divertita. Quanta vita ancora c'è da guardare, da sentire davanti a me. Scena l'ho girata, ora puoi cercarmi, puoi trovarmi qua. Il tempo è qua. Qualche scena l'ho fermata, ora puoi guardarla, puoi vederla qua. Pensare, rivivere, proteggere, di un album da riempire, da dipingere. Quando spargerai i semi fioriranno sul tuo prato tutti i sogni che prevedono il futuro che ti è dato. Una casa sempre pronta per ospitare buoni amici. Un lavoro dignitoso da ripagare i conti e i sacrifici. Un terrazzo per volare di notte e far l'amore. E tuo figlio che ti guarda con un po' di ammirazione. E tuo figlio che crescendo prende la sua direzione. Quanta vita ci sarà da sperare e costruire davanti a me. Va, il tempo va. Qualche scena l'ho girata, ora puoi cercarmi.